1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari debosciati di tutta Italia, unitevi, e anche di tutto il mondo, visto che ogni giorno andiamo a scovare un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci ascolta dall'estero nel nostro nuovo spazio Ciao Italia, che abbiamo alle 8:50. Allora, oggi parleremo di che cosa? Parleremo di quel rapporto che è stato diffuso in America, nel quale il Senato americano condanna la CIA per le torture dopo l'11 settembre ai danni di molti arrestati e portati a Guantanamo, per esempio. È giusto svelare questo rapporto oppure è un assist a coloro che... un aiuto a coloro che ora troveranno questo rapporto come una scusa per fare nuovi attentati, nuovi attacchi agli americani, all'Occidente. Questo è il dibattito che è nato in America con il presidente americano Obama, che ha condannato duramente quello che è uscito dal rapporto, cioè il comportamento della CIA. Oggi avremo anche il professor Severino Galante, quello che ieri raccontavamo a due vitalizi. Forse ne avrà un terzo come docente universitario, ma ha scritto una lettera accorata a dire: non toccatemi il vitalizio o faccio tutti i tipi di ricorso immaginabili. Parleremo anche con lui. Ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 10 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul crollo delle borse europee, l'Europa cade, il BTP torna sopra il 2%, ad Atene meno 12,8%, ma crolla tutto il mondo, anche Shanghai, e dunque l'allarme a partire da qui. Per il Corriere della Sera, corruzione, pene più dure, questo è l'annuncio del Premier Renzi. Anche per Repubblica, Grecia, un incubo sull'Europa, le borse bruciano 220 miliardi. La vicenda Roma è ancora l'apertura per il Fatto Quotidiano. Carminati, socio della cooperativa, vi racconto la cena con Renzi, parla il collaboratore di Salvatore Buzzi alla cooperativa 29 giugno. Mentre per Libero, la cupola a cena da Renzi. Il Giornale invece, dalle carte, spuntano i nomi di Alfano, Fassina, D'Alema. Il Messaggero, corruzione, la stretta di Renzi. Mentre La Stampa apre su Loris, tutti contro la mamma, ma lei respinge ogni accusa. La notizia ovviamente di cronaca, con cui apriremo anche la lettura dei giornali. Avvenire invece si concentra proprio sul rapporto del Senato americano sulla CIA. Mea culpa degli USA, torture vere e inutili, rapporto shock del Senato sull'antiterrorismo della CIA. Ma ovviamente la notizia di cronaca con cui aprono molti giornali è quello dell'arresto, ormai, o meglio del fermo, che deve essere tramutato in arresto, insomma è stata tradotta in carcere. Secondo la procura di Ragusa è lei, la madre del piccolo Loris, ad aver agito probabilmente da sola, molto probabilmente da sola, uccidendo, strangolando suo figlio e poi buttandolo vicino al mulino. Ovviamente cosa succede in questi casi? Gran parte della gente ha già deciso, quelli che erano radunati attorno alla procura e all'uscita hanno urlato assassina alla madre, quelli in carcere, si fa sapere già che dal carcere l'hanno accolta con le frasi devi morire, sono le spietate leggi così brutali del popolo che evidentemente hanno già deciso. Quello che lei invece respinge, continua a respingere nell'interrogatorio, a dire trovate l'assassino, anche se racconta il procuratore capo Petralia nel verbale che ha portato al fermo della donna, parla di una donna che si è resa responsabile dell'omicidio con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo, dunque un omicidio aggravato anche dai legami di parentela. La procura è certa, la madre ha ucciso Loris con cinismo questo l'atto d'accusa dei magistrati. La donna però, anche di fronte al serrato interrogatorio di diverse ore, quando le fanno vedere la macchina, vede la macchina, non c'è il suo figlio, lei non lo ha portato a scuola, lei si difende così: ma questo è Loris? Da dove lo vedete? Non capisco niente da questa immagine, mi state mostrando delle ombre, quest'altra cosa scura è una macchia, non è la mia macchina. Insomma, continua a urlare: trovate l'assassino. Ovviamente i giornalisti che scavano un po' nella vita passata di questa donna, oggi propongono alcuni articoli, due ve ne segnalo, molto inquietanti. Il primo è quello di Pierangelo Sapegno, lo trovate a pagina 3 della Stampa, il titolo è questo ed è una frase della madre di Veronica: Veronica, tu sei nata per sfortuna. Questa è una frase che la madre le disse quando era piccola, nata da una relazione extraconiugale, pare di capire. Da allora, dopo questa frase sentita a 14 anni dalla madre, la donna non volle più vederla. E oggi la madre di Veronica, dunque la nonna di Loris, sono andati un po' tutti a cercarla. Il Corriere della Sera con Antonio Castaldo e Giusy Fasano la trova. Il colloquio un po' con frasi smozzicate a pagina 11 del Corriere della Sera. Prima questa signora, la signora Carmela, la madre di Veronica, dunque la presunta omicida, è seccata per alcune ore, nega di essere lei. Poi alla fine cede, dice sì, ma non lasciatemi stare, io non vedevo mia figlia da anni, e regala alcune frasi tipo: mia figlia era violenta già da bambina, quando aveva 7 anni. E poi non è della famiglia Panarello, cioè il cognome che porta anche la donna, è dell'altra famiglia, famiglia Stivale, insomma quasi allontanarsi, volerla allontanare dalla propria famiglia. È una persona molto difficile, non c'è niente da chiarire tra di noi, io non ho niente da chiarire, scandisce. Poi al cronista: se ne vada, sono stanca, voglio stare tranquilla, la cosa certa è che mio nipote in vita non me lo darà più nessuno, mai più. Ed era uno scricciolo bellissimo. Il titolo: la nonna del bimbo, non vedo da anni mia figlia, era aggressiva e violenta già quando aveva 7 anni. Ovviamente si va molto anche a scavare nella vita, come si va a interrogarsi sul ruolo del marito e su come possa stare il marito che racconta Repubblica a pagina 19, pare l'abbia già scaricata. È uscito dopo un lungo interrogatorio dalla procura con una convinzione: forse è stata proprio lei, e se è così non ne voglio più sapere nulla, io sono il padre, rivoglio solo il mio bambino, cioè l'altro figlio. Ovviamente non c'è giornale che non dedichi 2, 3, 4 pagine a questo tema. Forse il giornale, che è Il Messaggero con Nino Cirillo, fa l'articolo più interessante sulla questione dell'inchiesta, perché poi, visto che c'è una donna che dice non sono stata io, c'è una procura sicura, certa che sia stata lei, l'inchiesta, tutti i buchi, tutte le contestazioni a questa donna contro Veronica, tanti indizi ma ancora nessuna prova. Questa pagina 4 del Messaggero: i risultati delle indagini contraddicono la mamma di Loris ma non la inchiodano, e gli investigatori hanno trovato nei video l'elemento decisivo che ha portato al fermo. C'è soprattutto un buco di alcuni minuti di quando lei rientra a casa che è poco chiaro. Ovviamente per giorni e giorni continueranno gli articoli di cronaca, mentre un episodio di cronaca nera ben diverso, però divenne molto celebre in passato. Ve lo ricordate? Massimo Tartaglia, colui che in Piazza del Duomo scagliò una statuetta proprio del Duomo in faccia a Berlusconi, rovinandogli i vari denti, procurandogli una ferita abbastanza grave al volto. Ebbene, l'attentatore di Berlusconi è ricomparso, ed è ricomparso, incredibile, è ricomparso dopo 5 anni, ha partecipato a una selezione in un centro commerciale, pare a Brugherio, per tentare di fare Babbo Natale, ed viene fotografato ed è stato scartato. Cioè non è stato neanche ritenuto idoneo, in grado di fare Babbo Natale. Eccolo qui, l'attentatore di Berlusconi sogna di fare Babbo Natale. Pagina prima pagina e continua poi a pagina 14 del giornale, eccolo qui, Tartaglia che ferì l'ex premier in Piazza Duomo torna in pubblico e in un'intervista Oggi che lo ha avvicinato, lo ha scovato, dice i politici meglio che li lascio perdere, ecco, meglio Tartaglia, meglio. Ma siamo al premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. Lo troviamo in prima pagina sul Secolo XIX. Voi magari che ascoltate in questo momento state mettendo via i soldini, gli euro, perché vi è arrivata a casa da pagare la Tari, la Tasi, la Ilimu, e quindi dovrete pagare tra alcuni giorni l'Imu, la Tasi, la Tari, Sappiate che racconta il Secolo XIX anche Genova. Genova comune evade l'Imu. Ma come evade l'Imu? Eccolo qui, Roberto Sculli. Qualcuno che non abbia pagato l'Imu per scelta o necessità ci sarà pure. Ma che succede se a non pagare è chi l'imposta normalmente la richiede, cioè un comune? E per referenze chiedere a 4 piccoli comuni, Busalla, Montoggio, Bargagli e Sorso. I primi 3 sono in provincia di Genova, Sorso è un paesino del Sassarese in Sardegna. Questi 4 paesini, al termine di una piccola battaglia a colpi di carte bollate condotte dal titolare del credito più ampio, cioè Busalla, che doveva ricevere 17.000 euro, sono riusciti a ottenere che l'evasore in questione pagasse. Solo che l'evasore era il comune di Genova. Ovviamente il comune di Genova non deve pagare le tasse per immobili di proprietà sul proprio territorio, perché è come se un comune pagasse a se stesso. Ma Genova aveva delle proprietà immobiliari nei comuni succitati Busalla, Montoggio, Bargagli e Sorso e non pagava l'Imu, il comune di Genova. Finalmente questi 4 comuni ce l'hanno fatta, hanno ottenuto che Genova pagasse il proprio debito, 16.724 euro a Busalla, 461 euro a Sorso, 700 euro a Montoggio e 282 eurini a Bargagli. Questi comuni hanno finalmente incassato i loro soldi, rassegnati come cittadini qualunque. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Ridete. Poi magari alla fine lo scudetto lo vincerà la Roma. Chi lo sa. Può succedere. È una cosa che speriamo tutti, perlomeno qui. Però insomma, brava Juve, bravi, ridete. Allora, qui invece c'è poco da ridere. Renzi ieri si è mostrato alla Nazione in un discorso che ha postato su internet, su YouTube e anche su Twitter. Ha parlato della corruzione dopo gli scandali di Roma, che continuano ancora, intercettazioni sui giornali. Che cosa ha promesso? Ha promesso pene più severe, la condanna minima di 6 anni e chi patteggia non uscirà di prigione come al Monopoli, ha detto Renzi. Ha utilizzato questa frase: su 50.000 persone in carcere ce ne sono 257 solo con sentenza passata in giudicato per corruzione e reati contro la pubblica amministrazione. Insomma, oggi quando uno ruba può patteggiare e trovare la carta per uscire di prigione come a Monopoli. È inaccettabile. Ora, questo è l'annuncio, come racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a pagina 6. L'annuncio è fatto, come di consueto. Per una volta non dovrebbe essere troppo complicato scrivere norme che corrispondano alla dichiarazione di intenti. Il vero problema, scrive però Bianconi, sarà farle approvare, perché l'allungamento dei termini di prescrizione per i reati dei colletti bianchi è un argomento che divide e può far traballare la maggioranza di centrodestra, centrosinistra che sostiene il governo Renzi. Ma questo è un problema della politica. Quindi c'è un problema politico. E poi il problema tecnico. I tecnici del Ministero di Giustizia sono al lavoro per tradurre in pratica il proclama del Presidente del Consiglio, che in parte è già contenuto nei disegni di legge in discussione e in parte modifica i progetti in corso, ma non sa ancora in quale direzione. Insomma, la sensazione, come scrive Bianconi sul Corriere della Sera che in qualche modo Renzi abbia un po' precorso i tempi spiazzando gli stessi tecnici del Ministero della Giustizia. Per la verità il ministro stesso, il ministro Orlando, viene intervistato da Repubblica, pagina 10, viene intervistato da Liana Milella, e alla domanda ora fate sul serio dice: non abbiamo mai scherzato contro i corrotti, lo prova l'autoriciclaggio, questa non è solo propaganda, tant'è che non è un intervento spot e non riguarda solo l'ambito penale. Tempi stretti, Parlamento permettendo, sì. Quindi lo stesso Orlando premette che c'è un problema parlamentare di far approvare questa cosa, ovviamente. Comunque, farà paura ai corrotti patteggiare e non scansare la galera? È giusto, risponde il ministro, che pur se si ammette la responsabilità, una parte della pena sia scontata in carcere. Basti pensare appunto che su 54.000 detenuti solo 250 lo sono per reati contro la pubblica amministrazione. Questo è il dato che ha detto anche Renzi. Le cronache recenti dimostrano, dice Orlando, che il patteggiamento per questi reati funziona, ma bisogna evitare che la deterrenza della pena perda la sua forza. E alla domanda se non sia l'ennesimo slogan dire che i ladri restituiranno il mal tolto, risponde Orlando: ridare indietro i soldi rubati sarà la condizione senza cui non si potranno avere sconti di pena. Sarà una pena aggiuntiva di forte deterrenza. Come abbiamo visto per i mafiosi, aggredire il patrimonio spesso spaventa più del carcere. Questo Orlando che dunque dice a Repubblica: vanno colpiti i patrimoni e va reintrodotto il falso in bilancio. Questa è la novità di Orlando. Per quel che riguarda l'inchiesta di Roma, beh, continuano le indiscrezioni, continuano le intercettazioni. Il Corriere della Sera racconta di un nuovo libro nero trovato, un libro delle tangenti. Si cercavano sponsor in Parlamento. Il nome che spunta nelle intercettazioni, pur non essendo neppure indagata, è Anna Finocchiaro. Anna Finocchiaro, in una conversazione telefonica tra Odeven, che era l'ex capo, vice capo di gabinetto di Veltroni, finito poi nell'inchiesta, e tale Parabita, parlano del centro di Mineo in Sicilia per la gestione dei migranti. E Odeven a un certo punto dice: a me mi ha detto Salvatore Buzzi che è andato a parlare dalla Finocchiaro, e la Finocchiaro gli ha detto: lascia perdere, quella gara è già assegnata. Quindi secondo questa intercettazione telefonica Odeven dice che Buzzi, uno degli indagati, quello della cooperativa 29 giugno, è andato a parlare con la Finocchiaro. Questo almeno riferisce Odeven. A proposito di Buzzi, l'intervista più interessante certamente oggi ce l'ha il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano intervista a pagina 2 con Antonio Massari Claudio Bolla. Chi è Claudio Bolla? È il braccio destro di Salvatore Buzzi nella cooperativa 29 giugno, e Claudio Bolla racconta alcune cose interessanti. Intanto eravamo alla cena del PD, quella con Renzi, per raccogliere i soldi. Abbiamo pagato circa 10.000 euro, così mi ha detto Buzzi. Eravamo in 5, c'erano anche due soci della cooperativa, persone senza alcuna carica, e non vi dico il nome perché non voglio metterle nel tritacarne senza motivo. Ma poi soprattutto racconta dei rapporti tra Buzzi e Carminati, Ercecato, no? Ernero, colui che è considerato dal profilo criminale altissimo. Ebbene, eccolo qui, Claudio Bolla. Ma Carminati che ruolo aveva nella cooperativa? È un lavoratore della cooperativa. Che significa un lavoratore? È un socio. Un socio? Ho chiesto a Buzzi: Carminati, in che ruolo viene qui alla cooperativa? E lui mi ha risposto: è un socio lavoratore, ma penso che sia stato un socio vero. Cioè, secondo Bolla, Ercecato era socio della cooperativa 29 giugno, con la quale facevano affari e fanno affari tutti, il Comune di Roma ancora adesso. Per esempio, racconta Repubblica che il nuovo appalto è sull'ATAC, ottenuto sull'azienda dunque di trasporto pubblico. Ma guardate, tutto un profilo di intercettazioni, escono tutti i nomi. Secondo il giornale, il titolo di prima pagina è questo: nelle intercettazioni spuntano Alfano, Fassina, D'Alema, le cooperative aiutate anche dal premier Renzi, dal sindaco Marino. è la vicenda legata alla nuvola di Fuxas, in cui tempi e costi si sono dilatati sfociando anche in un'indagine alla Corte dei Conti. Ebbene, secondo il giornale, Massimo D'Alema, Stefano Fassina e Angelino Alfano avrebbero subito pressioni dal braccio destro del presidente di Eur S.p.A. Per la vicenda della nuvola di Fuxas. Insomma, è anche tutto un profluvio ormai di intercettazioni che prendono vari rivoli. Intanto Libero fa sapere, avete sentito prima Luca Zaia molto arrabbiato, il presidente del Veneto, Libero fa sapere che spenderemo 1 milione da parte del Ministero dei Beni Culturali per la festa del cinema di Roma. Ebbene sì, proprio ieri, proprio in questo tourbillon di polemiche è stato approvato questo. Ciac, si spende 1 milione alla festa del cinema. Dopo i 110 milioni extra nella legge di stabilità dati a Roma Capitale, ecco 1 milione all'anno che costerà al Ministero per le casse della festa del cinema di Roma. Evviva, evviva. Tra l'altro, sapete quanto prendeva Salvatore Buzzi come stipendio regolare, lo stipendio da presidente della cooperativa 29 giugno? Questo lo dice sempre Claudio Bolla, il suo braccio destro. 25.000 euro, 25.000 euro, tanto che lo stesso Claudio Bolla ha detto: quando l'ho saputo mi sono un po' incazzato. Più o meno, a proposito di 25.000 euro, saluto Mauro Meazza, più o meno lo stipendio settimanale che Mauro Meazza ha. Buongiorno Mauro. Buongiorno, beh no, settimanale dobbiamo ancora parlarne un attimo col direttore personale. Ma forse confondi col tuo settimanale, sì, che certo, è un po' più certo, alto, perché certo, c'è anche ho arrotondato per prima, difetto, eccetera. No, però sul mensile, chiaramente parliamo di cifre nette o lorde? Nette, ovviamente. Ah, ecco. No, lo dico, mi fa piacere dirlo oggi, anche perché col Sole 24 Ore presentiamo il nostro tabloid, il nostro supplemento del mercoledì, dedicato agli accertamenti fiscali di fine anno, quindi l'occasione giusta anche per gli amici dell'Agenzia delle Entrate, appunto, segnalare la mia e anche un po' la tua retribuzione, caro Alessandro, così almeno diamo un po' di lavoro, poi comunichiamo che i codici fiscali in modo da non disturbare contribuenti che non c'entrano nulla. Volevo dirti, lo sai che da sabato cambiano le etichette alimentari? Mm-hmm. Hai fatto caso? Oggi spiega bene Scarci, Emanuele Scarci, su Sole 24 Ore, che appunto c'è questa iniziativa per renderle più trasparenti, anche se poi in realtà l'indicazione del luogo di produzione, a cui noi italiani tenevamo abbastanza, per non dire un bel po', quella lì aspettiamo ancora, non c'è un accordo in sede europea. Però insomma alcune cose vanno a cambiare, ci saranno appunto maggiori informazioni per i consumatori, anche maggiore chiarezza sulle date di scadenza e così via. Un evento da non sottovalutare. Così come ti inviterei a non sottovalutare l'IVA. Guarda che l'IVA è sempre in agguato. Specialmente l'IVA, caro mio, non devi mai distrarti, perché dal 2015 cambia l'applicazione sugli acquisti, ad esempio, di musica online, di prodotti digitali, e quindi questo è importante perché si va a guardare il paese del consumatore, quindi le aliquote, le percentuali che si applicano cambiano. Questo dove l'ho letto naturalmente? Nelle pagine di Lotuche. Vedi che lo sai, vedi che lo sai. Poi ti ricordo sempre quei 2 urini che ti sono caduti a Chiasso, a Lugano, dove a Zurigo, non mi ricordo più. Guarda che parliamo ancora di voluntary disclosure, c'è anche un calcolo appunto di costi e opportunità sempre nelle pagine di norme e tributi, quindi puoi andare finalmente a rimettere in chiaro i 2 urini senza aspettare l'accertamento di cui ti parliamo invece nell'inserto. Mi raccomando, non farti beccare impreparato. No. Hai visto che gli arabi, Abu Dhabi si è comprato il palazzo della polizia di Scotland Yard? Lo diciamo oggi sulle pagine di Finanza, è abbastanza curioso, insomma la polizia si va a prendere una sede più piccola, però useranno il ricavato che è stato decisamente superiore alle attese, credo 460 milioni, una cosa del genere, per modernizzare le attrezzature dei poliziotti, appunto una cessione, una sorta di spending review degli altri questa volta, che ha avuto questi acquirenti esteri decisamente notevoli. Poi non c'è ancora la proroga, e qui Radio Fisco, la proroga sull'IMU dei comuni ex montani non c'è ancora, ma domani vedrete che ci sarà. poi non posso dire di più, no, abbi pazienza, sono cose anche delicate, l'IMU sui terreni dei comuni ex montani è una cosa delicata, sappi che la proroga ancora non c'è, ma domani ci sarà. Detto questo io mi taccio. Caro Alessandro, traffico! Oh, Milan! Sì, il numero uno, ciao! Ciao anche a te, caro ascoltatore. Detto che il ministro dell'economia Padoan ha ribadito, perché ieri c'erano indiscrezioni in tal senso sul Corriere della Sera, no, non sforeremo il 3%, sarebbe un boomerang sfondare il 3%, questo lo trovate su tutti i giornali, per esempio interessante l'analisi di Dino Pesole a pagina 7 del Sole 24 Ore sui conti pubblici, ovviamente in un giorno in cui tutte le borse sono crollate, abbiamo perso 200, sono stati persi 220 miliardi che sono stati bruciati. Prima di andare all'estero c'è incredibilmente ancora da dire che ci sono due o tre pagine sulla legge elettorale, insomma il nuovo tormentone è questo, che se si andasse a votare prima si potrebbe rispolverare solo per il Senato in attesa dell'approvazione della legge elettorale, siamo nell'84esima settimana decisiva per l'appunto dell'approvazione della legge elettorale, il Mattarellum, insomma vabbè, paginate e paginate che commento con il famoso editoriale di Oscar Giannino. Basta! Basta! Basta! Ecco, siamo stati abbastanza chiari. Allora, andiamo in America. Noi ci occuperemo alle 8:15 di questo rapporto che è stato svelato dal Senato americano sulle torture e gli orrori, questo è il titolo di Repubblica, perpetrati dalla CIA, non in alcuni casi, ma in molti casi, di prigionieri dopo l'11 settembre. Guantanamo, quant'altro, le polemiche le sapete, è solo che leggere in questo rapporto del Senato americano, in un atto di estrema trasparenza da parte della democrazia americana, di far sapere che l'agenzia di intelligence usò sistematicamente la tortura e tra l'altro anche inutilmente, perché in alcuni casi non portò a risultati, nel senso che le persone stavano già parlando, ma quando si parla di tortura si parla di minacce di esecuzione di morte, privazione totale del sonno fino a portare alle allucinazioni le persone, minacce di sodomizzare le persone con un bastone, il waterboarding, cioè mettere un cappuccio in testa e buttare l'acqua sopra sulla bocca, il che provoca una sensazione di annegamento. Ci sono alcune persone come Khalid Sheikh Mohammed, che è la mente dell'11 settembre, che ha provato 183 volte, è stato sottoposto a questa tecnica del waterboarding. Insomma, Obama ha detto mai più, mai più. I titoli dei giornali sono questi: le torture della CIA brutali e inutili, scrive per esempio il Corriere della Sera, il rapporto del Senato, e ovviamente le polemiche, ci sono interviste, ci sono anche commentatori, c'è Carlo Panella in prima pagina di Libero che dice questo è un grave errore, solo negli Stati Uniti di Obama possono accadere cose del genere. Nel nome della trasparenza, spinta oltre ogni limite, a scapito della ragion di Stato, Obama si assume la responsabilità di far pubblicare un report che non solo testimonia l'ampio impiego delle torture da parte della CIA durante l'amministrazione Bush, ma che soprattutto le giudica ininfluenti e senza risultato nella lotta al terrorismo. Il tutto scatenando un'ondata di indignazione nel mondo arabo, sicuramente fornendo ampie motivazioni ai terroristi per continuare a lottare con tutti i mezzi contro un avversario che violerebbe le sue stesse regole di civiltà. Insomma, scrive Panella, ora tutte le ambasciate americane del mondo sono poste in allarme rosso e c'è solo da scommettere su quale sarà la prima assalita da una folla inferocita o fatta saltare per aria, come dire, una mossa incauta, perché presta al fianco a che cosa? A critiche e attacchi. Comunque ne parleremo alle 8:15. Sugli Stati Uniti però c'è un'altra storia che mi ha molto colpito e la trovo oggi sul Manifesto, la racconta Paolo Barone, è un'incredibile vicenda che è accaduta a Bill, quarantenne, afroamericano di Detroit. Tra l'altro Paolo Barone ne parla e ne scrive perché dice è un nostro amico di famiglia. Ebbene, il titolo di questa storia che trovate a pagina 16 del Manifesto è Fossi stato un bianco. Succede che questo Bill a un certo punto con la moglie ha una figlia che però nasce ed è bisognosa di molte cure, quindi sta in ospedale un paio di mesi e quando viene portata a casa arriva il conto, $75,000 dall'ospedale da pagare. Bill ovviamente questi soldi non li ha, al che viene convocato da un tribunale dove un giudice gli dice che non solo deve pagare subito il suo debito, ma che il suo comportamento irresponsabile lo mette a rischio di essere condannato per non avere supportato le esigenze della figlia. Ha 2 mesi di tempo per pagare questo conto. Ovviamente Bill non sa come fare, non trova un lavoro che gli permette di recuperare $75,000. 2 mesi dopo viene convocato dallo stesso giudice e condannato al carcere. Ora, ogni anno e mezzo circa deve scontare 2 mesi di prigione finché non riuscirà a pagare il debito, una cosa che non riuscirà mai a fare perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto proporzioni mostruose. E attenzione, se commette anche un solo crimine, anche prendere una multa, questo va a accumularsi sulla sua fedina penale e rischia un'incarcerazione molto più lunga. Racconta Bill: mi vengono a prendere senza preavviso, bussano alla porta, io devo mollare tutto e seguirli in galera per 2 mesi, mi metto le manette davanti ai miei figli, mi sbattono in macchina, sirene spiegate e sparisco. Ecco, scrive il manifesto, il mio amico, colpevole di aver avuto una bimba nata prematura, non è più un cittadino libero, non può lavorare se non in nero, non può votare, gli ha ritirato il passaporto, non può lasciare il paese, viene periodicamente incarcerato e la situazione può peggiorare da un momento all'altro. Insomma, da 15 anni a questa parte, continua questa situazione, Bill non è un cittadino americano a tutti gli effetti, ma un esempio vivente di una nuova categoria sociale, uno schiavo del nostro tempo, nato nel paese più ricco del mondo. Ovviamente, dice questo Bill, fossi stato un bianco, da qui il titolo, tutto questo non sarebbe accaduto, e si va a inserire anche nel dibattito che c'è in questi giorni negli Stati Uniti. Notizie che mi hanno colpito qua e là. La messa in dialetto, cari amici della Sardegna. Libero racconta che alcuni vescovi sardi premono per usare la loro lingua nelle funzioni e il Papa sarebbe pronto a dire sì. Non vi dico e non vi leggo per non fare scempio della lingua sarda, del dialetto sardo, come inizia l'articolo di Caterina Maniaci, che comunque è il Padre Nostro in sardo. Ecco, dopo ve lo leggerà Peter Bescapè in sardo e lo metteremo su Facebook. Mentre il giornale con Francesca Angeli, pagina 23, poco polso e cattivi esempi, i figli copiano i vizi dei padri. Sappiate, cari padri, e lo dico anche a me stesso, che i divieti cadono nel vuoto perché i genitori sono incapaci di dare regole ai ragazzi. Non esistono più i no. È una pagina tra la psicologia, la pedagogia, come si crescono i figli. Un ragazzino su 4 gioca d'azzardo, un ragazzino su 2 fuma di nascosto. Questo perché, scrive il giornale in questa pagina, intervista varie psicologhe e psicologi, i padri non sono più in grado di dare esempio. Vabbè, siamo al momento conclusivo. Dopo aver detto che la Juve è passata agli ottavi di Champions League, ma uscirà prima o poi, speriamo che... L'articolo più inutile scovato sui giornali è questo. Quanto mi odiano, ma avete capito che io un po' scherzo, amici juventini, un po' scherzo, no, non l'avete capito, un po'. Renzi e Suor Cristina sono i fenomeni da YouTube, mezza pagina su Il Fatto Quotidiano di Valerio Venturi, i più cliccati di video, Renzi che parla, si fa per dire, in inglese, e Suor Cristina. Ma chi se ne frega?